Certamente tutti voi siete devoti ad andare al cimitero a pregare sulla tomba dei vostri cari, tenerla in ordine e ci lasciate il cuore tante volte, soprattutto se avete perso una persona carissima da non molto tempo. Ora, avete questo sentimento forte dentro. Non so però se avete mai assistito a una esumazione. Magari la tomba doveva essere liberata in un posto per un altro defunto vostro caro e dice, beh, allora togliamo la cassa del papà, la mettiamo in una cassettina di zinco e poi la mettiamo in un'altra tomba. Beh, è un momento sempre molto, molto duro questo, perché magari sono passati tanti anni, si tira fuori questa cassa e tu metti in una piccola cassettina di zinco poche ossa di varia lunghezza, magari il cranio, ci sono ancora dei denti e tu dici, ma questo qui è mio papà. Mentre se quando era sottoterra tu ci arrivavi e non vedevi queste cose e il tuo pensiero era sempre il tuo sentimento alla figura di tuo papà, di tua mamma, lì invece vedi a che cosa è ridotto. Ebbene, cari amici, chi non ha speranza in Gesù Cristo si ferma lì. E anche noi che veniamo in chiesa magari anche tutti i giorni e abbiamo speranza in Gesù Cristo, però abbiamo bisogno di tenere più presente, non le ossa, il paradiso. E allora scopriremo come anche nella Santa Messa di oggi, in cui ricordiamo Timoteo e Tito, ricordiamo magari questo brano di Vangelo che termina. Io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. Io vi dicevo alle nozze di Cana che nella Bibbia il pranzo insieme è sempre un grande momento di festa e allude al banchetto messianico. Eccolo qui un altro esempio. Ma noi non ci pensiamo mai a queste cose, amici. Noi siamo persuasi sì che la nostra vita finirà, che quella dei nostri cari è finita, però noi non ci raffiguriamo, non lo sogniamo mai il paradiso. Non ci pensiamo mai a questo banchetto in cui sarai ancora come ai pranzi di Natale di quando eri piccolino, che c'era tutta la tua famiglia riunita intorno. Che festa, che festa! Sarà così il paradiso, amici. Ma noi dobbiamo pensarci un po' di più, dobbiamo rifletterci un po' di più. E allora io sono andato cercando nella liturgia di oggi se ci sono altri riferimenti. E trovo nella prima orazione, aiutaci a vivere in questo mondo con giustizia e con amore di figli, così da meritare la gloria del tuo regno. Forse non ci siamo neanche accorti, eppure io ho pregato queste parole. Ma non basta lì così, ci sono ancora in altri momenti. Fa che noi ci uniamo a questi tuoi servi beati, dice il prefazio, che oggi onoriamo, e a tutte le schiere degli angeli per cantare l'inno della tua gloria. Paradiso si canterà a crepapelle, che bello! Oggi non si canta più, oggi non si canta più in giro. Si ascolta musica o si ascolta ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, chiama la musica. No? Ma non si canta più. Mio padre aveva una bottega di artigiano in cui imbottivano le poltrone, i divani, così ha sempre avuto 3-4 operai, tutti appassionati di montagna perché erano tutti alpini. Che bello entrare in bottega e sentire questi cori di montagna. Oggi non si canta più, non c'è più la gioia del cantare. Per fortuna è rimasta un po' qualche cenetta fatta insieme. Ma amici, in paradiso si sta in compagnia dei nostri cari, in compagnia di Gesù, di Maria. Ancora dice alla comunione: viviamo in questo mondo, fratelli, in attesa della beata speranza e della venuta gloriosa di Dio Onnipotente. E ancora, chi avrà fedelmente servito il Vangelo risplenderà per la fede in Cristo Gesù. Coraggio. Qualche volta che noi leggiamo il Vangelo o leggiamo il messalino quotidiano, che sia qui in chiesa, magari arriviamo un po' in anticipo, o che sia a casa nostra, in cui facciamo un digiuno televisivo e pigliamo in mano la Bibbia o il messalino quotidiano, andiamo alla ricerca di queste parole. E allora dentro di noi sarà come stabile il pensiero del paradiso. Oggi al mondo manca questa speranza, anzi manca questo pensiero. È per questo che il mondo è così triste, così disperato, è per quello che la gente si va giù di giro, la gente perde speranza. Sono disperata. Non dire questa parola, disperata, vuol dire senza speranza. Sono addolorata, sono amareggiata, sono triste, sono addolorata, ma non sono mai disperata. Coraggio, amici, che il paradiso entri dentro nei nostri pensieri, entri dentro nei nostri affetti.